Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Molte persone stanno vivendo è una crisi feroce. Il più del 38% degli italiani, e si parla di oltre 24 milioni di persone, ha risorse economiche esigue. In molti casi si arriva a fine mese grazie al sostegno di associazioni. La Banca d'Italia ha calcolato nel 40% il numero di persone che stanno facendo fatica a sostenere le spese fisse come affitto o mutuo. È un capitolo della storia del nostro paese che per essere superato ha bisogno dell'azione di tutti. Per questo abbiamo scelto di raccontarvi questa storia, tanto piccola ma tanto bella ed esemplificativa di come l'Unione faccia davvero la forza. Siamo in una legatoria, qui lavorano persone con esperienze e persone che arrivano in questo laboratorio con le ossa rotte, sia per una loro fragilità in partenza, sia per una fragilità acquisita nel tempo, a causa della mancanza di soldi e di possibilità, come ci spiega Guido Artosin, che coordina i lavori in questa legatoria, che è anche cooperativa sociale. Sono spesso sono storie invece complicate, con dei bisogni borderline. E mi viene in mente un ragazzo che è venuto qua in tirocinio, che aveva la famiglia che non esisteva praticamente più, viveva in comunità. Questo si doveva alzare tutti i giorni per essere qua alle 8 di mattina. E capite bene che con che voglia un ragazzo che vive una situazione così fragile in famiglia possa decidere poi di trovare persone che gli dicono: guarda che alle 8 devi essere qua, e non ce n'è, se no sono cavoli tuoi. Quindi queste sono le storie un po', ecco. Oppure appunto ragazzi con origine straniera che vivono magari familiarmente sono molto attrezzati, ma che vivono difficoltà economiche importanti. Quindi il padre che magari si alza alle 4 del mattino per andare a fare i sacchi e lui ci va dietro e magari deve rinunciare perché deve finire la scuola e deve venire qua e fare il tirocinio, quindi le pressioni sono tante. Sono storie che però hanno un risvolto umano proprio in queste persone, credo che inimitabile, cioè non hanno paragone con altre storie normali. Persone a cui sono arrivate parecchie porte in faccia, e invece qui tutto cambia, perché questo è un posto dove si viene pagati e dove i legami contano tanto quanto il profitto. Ce lo racconta Pasquale, che lavora qui da oltre 15 anni. Questa è una taglierina, sto tagliando dei cartoni per portarli in misura con i volumi che andremo a rilegare e fare delle copertine. Lei è? Sono Pasquale. Da qua? Sono 15 anni che lavoro al borgo, mi trovo molto bene. Lei ha aiutato anche tante persone che sono passate di qua, evidentemente se aveva già esperienza. Sì, nel mio piccolo sapevo fare qualcosina in più, io ho dato del mio e loro mi hanno dato del loro, ho imparato anch'io. Cosa hai imparato da queste persone? Parliamo però un aspetto umano, sì, più che lavorativo, sì. Ho trovato tanti caratteri diversi, tante personalità diverse, sono passati tanti ragazzi, mi hanno dato del loro umanamente, io ho cercato di dare del mio. Ha visto persone in difficoltà che poi miglioravano lavorando? Sì, sicuramente, parecchi in difficoltà. Poi entrando in questa piccola realtà, conoscendoli, facendo gruppo, uscendo fuori a mangiare quando si poteva, creavi dei rapporti e ci si parlava del più del meno e si dava una mano fra di noi. Perché in fondo è tutto lì, no? Cioè se tu entri in un meccanismo di lavoro, di relazioni, le cose migliorano? Sicuramente. Quando poi c'è un gruppo, crei un gruppo, se il gruppo è solido, risolvi subito i problemi, non li trascini e cresci. E lei prima lavorava in un'altra legatoria, però non era come questa, cioè non aveva questo fine, diciamo, sociale che questa ha invece. No, tutt'altro, era tutta un altro tipo di esperienza. Stavano solo a fine mese, quello che deve arrivare agli obiettivi. tipo qua, non lo so, ogni compleanno mangiamo tutti insieme, una cosa che prima, dove lavoravo prima, non avevo mai fatto, e quello lì vuol dire tanto. Cioè, lì si pensava solo al fatturato, diciamo. Sicuramente, sicuramente. E quindi anche le relazioni erano più fragili. Sì, era tutto più fragile, era come un castello di sabbia. Secondo lei, in una situazione di crisi come quella che stiamo per vivere, o che stiamo già vivendo, situazioni lavorative come questa sono più forti? Sicuramente sì, sono più forti perché dove ci sono delle mancanze, non guardi il tuo orario, te ne vai, puoi aiutare l'altra persona se ha bisogno di una mano e l'altra persona aiuta te, senza chiedere neanche. Quindi diciamo, voi oltre ad aver aiutato tante persone in questo momento, siete in grado di aiutarvi tra di voi? Penso che sia anche un aspetto di questa cooperativa, aiutarci fra di noi, ma come può essere sul lavoro, come può essere anche fuori dal lavoro. Perché non finisce dopo le 8 ore di lavoro la nostra relazione. Lei ha avuto persone che avevano proprio difficoltà gravi, che ha visto proprio imparare questo lavoro? Ma non le chiamo difficoltà gravi, le chiamo magari c'è chi ci mette 5 minuti, chi ci mette una settimana, chi ci mette un mese, ognuno c'è i suoi tempi, non sono difficoltà quelle. E poi sta nella pazienza dell'operatore che gli insegna le cose, a trovare delle soluzioni e dargli i suoi tempi, perché ognuno ha bisogno dei suoi tempi. Modello di economia che porta beneficio non solo in chi lavora all'interno di questo laboratorio, ma anche in chi vi ruota attorno, ed è forse la più grande ed importante lezione che dobbiamo tenere a mente: il lavoro che sia anche in qualche modo luogo di libertà e di giustizia sociale, come disse Sandro Pertini. Mi dica in coscienza, lei può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli e educarli? Questo non è un uomo libero. Sarà libero di bestemmiare, di imprecare, ma questa non è la libertà che intendo io. Sono Guido Artosin e sono coordinatore della Legatoria Cooperativa Il Borgo di Milano. Dal 1986 siamo orgogliosi di soddisfare i nostri clienti e cerchiamo di migliorarci continuamente. Ecco, questo qui però non è solo un progetto, diciamo, per fare profitto, questa è un'idea che nasce con uno scopo no profit, quindi di sostegno ad altri. Sì, assolutamente. Nasciamo con l'intuizione che nell'86 il Cardinal Martini ebbe, con la lettera pastorale Farsi Prossimo, un gruppo di persone si diede da fare per mettere in pratica questa intuizione. E da allora quasi 20 ragazzi sono passati da noi per avere un'opportunità di inserimento lavorativo in un settore artigianale come la legatoria, che adesso è un po' vintage, ma che dà soddisfazioni, insomma. Senta, e queste persone arrivavano da storie quindi di semplicemente carenza di lavoro o altre? No, diciamo l'attenzione è sempre stata quella verso persone che avevano comunque dei bisogni. E quindi persone sicuramente che in altri ambiti, classicamente quello scolastico, erano piuttosto in difficoltà, ma che messi alla prova su lavori così manuali, anche gratificanti per vedere realizzato il lavoro finito, sicuramente hanno avuto una grossa opportunità e una grossa chance di dimostrare quello che valgono. Perché ciascuno di noi è diverso, ciascuno di noi ha una storia e ciascuno di noi può esprimere quello che è stato la sua storia, la sua vita, ecco. E alcune di queste persone, alcuni di questi ragazzi o insomma persone che hanno lavorato qui, poi sono andati per altre strade. Sapete cosa è successo? Insomma, siete rimasti in contatto? Certo, sì, è un aspetto questo delle relazioni che ci contraddistingue molto, perché ci definiamo un po' una macchina sociale. Chi passa da noi sicuramente rimane legato perché si creano dei legami personali molto forti. Però Qualcuno di questi ragazzi, ad esempio, è andato in altre regioni, ha proseguito con altri lavori, altri mestieri. Qualcuno di loro ha proseguito questo mestiere per conto suo e anche in altri posti. Qualcuno di loro torna a trovarci, ci chiama al telefono e soprattutto adesso realizziamo questa mission, questa nostra così, vocazione attraverso anche degli stage formativi. Adesso abbiamo per esempio un ragazzo di 17 anni che è qui da noi, che sta frequentando un istituto professionale e che trova qui da noi proprio un posto dove poter proseguire la sua attività didattica, ma in un modo un po' particolare. Quindi il lavoro diventa uno strumento di crescita personale soprattutto. Anche se lui non farà poi il rilegatore, però trova qui delle regole, dei ruoli, delle funzioni, delle autonomie che altrove è difficile che possa trovare. Ecco. E le segnalazioni poi appunto dalle scuole sicuramente arrivano magari richieste di fare un periodo di stage a persone che magari hanno qualche bisogno e qualche fragilità in più. Perché trovano qua comunque persone che, pur nell'impegno di questo inserimento, hanno a cuore la storia di ognuno. Quindi su questo siamo molto allenati, ecco, preparati, sì. Senta, in questo periodo stanno aumentando le persone che perdono il lavoro invece, quindi quello che sta dicendo lei è un grosso tema che ha a che fare con la dignità, con lo stare in un quartiere, in una città, nel mondo, con un proprio ruolo, quindi è molto importante, no? Passa dai ragazzi ma tocca anche gli adulti. Voi state avendo un incremento di richieste di lavoro, cioè state notando un cambiamento? Questa situazione generale crea o diciamo delle solidarietà inaspettate oppure un ritirarsi. Noi notiamo più il primo aspetto. Dalle persone che lavorano come clienti, anche in istituti statali piuttosto che università, dietro anche magari nostra sollecitazione, ma conoscendo la nostra storia, sicuramente c'è un'attenzione e un'umanità che va oltre il ruolo di cliente fornitore. Questo sicuramente. E anche, insomma, si creano dei rapporti anche in questo senso. E, conoscendo la nostra realtà, sì, si nota una solidarietà inaspettata, sì. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Quella di oggi è una storia in fondo molto piccola, ma davvero molto bella. Parla di lavoro manuale, di artigiani e di solidarietà. In questa legatoria dove ci troviamo sono passate tante persone. Alcuni avevano fragilità evidenti, altri erano su quella linea che in un attimo ti trasforma in un invisibile, escluso da qualsiasi meccanismo sociale. Nel tempo, da questi tavoli sono passate tante storie e molte, grazie all'impegno di questi artigiani, sono diventate storie di normalità, come ci racconta Roberto Stefanelli, presidente della cooperativa Il Borgo. La parte iniziale della mia collaborazione è stata aumentare la clientela. Per la mia precedente esperienza avevo quello che serviva per farlo. Per cui abbiamo cominciato con 78 clienti, adesso ne abbiamo circa 260. Abbiamo preso tutto quello che potevamo prendere delle biblioteche cittadine e soprattutto nello stesso tempo abbiamo modernizzato la cooperativa con grandi sacrifici, molto aiuto dei nostri soci, abbiamo comprato macchinari che potevano consentire alla cooperativa di rimanere al mondo, l'abbiamo liberata da quello che poteva essere diciamo una dipendenza da terzi, perché quando abbiamo cominciato a collaborare, per esempio, l'incisione a calda la facevano all'esterno, solo che a Milano gli incisori a caldo per terzi si erano ridotti a uno, che era spesso malato e comunque facevano altre attività quindi la cooperativa dipendeva dagli umori e dalla disponibilità di questa persona. Da allora, questo è stato il 2006, quindi ci abbiamo messo circa 3 anni a raccogliere i soldi, a fare quel che serviva, siamo andati avanti migliorando, abbiamo fatto corsi di qualità alla gente, abbiamo fatto cose che in questo settore no, nessuno ha mai fatto, no? Ma nello stesso tempo abbiamo tenuto la barra iniziale di questa piccola navicella. La barra iniziale era nata per aiutare disabili o comunque non necessariamente disabili fisici, ma gente che aveva difficoltà familiari, tali che si sarebbero persi se non avessero trovato un'attività lavorativa. Quindi dall'oratorio della Chiesa della Santissima Trinità, dove è nata questa iniziativa, i primi ragazzi sono arrivati. Nel tempo abbiamo avviato il lavoro e quindi aiutato a inserirsi in un mondo normale 17 persone che avevano questo tipo di problemi. 2 sono ancora da noi, ormai sono da molto tempo da noi, sono delle prime ore, e gli altri sono andati gradualmente, dopo aver fatto 1, 2, 5 anni da noi, sono andati in giro per l'Italia anche. Quando siamo arrivati nel 2006, anno in cui abbiamo deciso che non potevamo più rimanere cooperativa sociale perché non ne avevamo più i requisiti, però abbiamo preso nel giro di un anno l'idea e l'iniziativa di continuare questo aiutando i ragazzi. Quali ragazzi? Sempre ragazzi con disagi che frequentano scuola professionale, l'ultima ruota del carro del sistema scolastico, dove finiscono molto spesso questo tipo di ragazzi. E quindi da allora abbiamo ormai oltre 40 ragazzi nel corso degli anni che sono transitati da noi. La cosa che ci dà più soddisfazione è che molti di questi ragazzi tornano a salutarci e ci raccontano cosa è successo loro, che vicende hanno avuto. Certo, sono chiare di luna molto difficili per tutti, quindi quasi tutti ancora cercano lavoro, sono pagati a piselli oppure a 2 manate sulle spalle, però non hanno dimenticato quello che hanno portato via da noi, no? Che è soprattutto solidarietà e un principio di serietà lavorativa che cerchiamo di inculcare. Un luogo dove ciascuno fa la sua parte e contribuisce a dare forma a relazioni solide che permettono a tutti di migliorare. Allora, io sono Andrea De Palma, io eseguo le incisioni a caldo sulle copertine rigide. Inserisco i titoli sul computer e con una macchina il titolo, l'annata, insomma, e poi anche le tesi di laurea. Come sei arrivato qui al Borgo, a questa cooperativa? Allora, io sono qui dal 2005 e allora, io nasco come tipografo, ho fatto una scuola professionale. Quando lavoravo in una tipografia ho colto l'occasione perché ho ricevuto una telefonata che qui cercavano una persona, mi hanno accolto, a tutt'oggi ho un bel rapporto con tutti quanti. Senti, anche tu quindi sei stato in qualche modo formatore per chi arrivava da situazioni più complicate, di fragilità? Diciamo che nel mio piccolo ho dato il mio contributo, ecco. E quanto ti ha arricchito questo dare? Tanto, nel senso che anche per i ragazzi che sono venuti, oltre all'ambito lavorativo, si è insegnato tanto quanto riguarda i rapporti anche extra lavorativi. Mi chiamo Emir. Cosa fai qui, Emir? Allora, adesso sto incollando i fascicoli per creare dei volumi. Tu sei molto giovane, quanti anni hai? Ho 17 anni. E cos'è che ti piace dello stare qui? L'atmosfera, l'ambiente e il lavoro che mi tiene occupato e mi trovo bene. Un posto, quello dove siamo stati oggi, in cui si riparano libri antichi e si ricucciono vite, come ci spiega Guido Artosin, che coordina la legatoria. La manutenzione delle biblioteche è proprio la nostra attività principale. Quindi vi arrivano anche dei libri che dovete sistemare in qualche modo? Sì, certo, qua ne abbiamo un esempio, abbiamo degli esempi. Ad esempio, questi sono libri che magari un privato ha ricevuto in eredità dal nonno, ci ha affezionato in modo particolare e ci chiedono di dargli una veste, diciamo, sostenibile per i prossimi secoli, perché spesso, insomma, sono volumi che hanno una storia e che noi gli diamo una dignità per proseguirla. Perché quello che hai in mano è un volume che praticamente sta andando a pezzi. Esattamente, esattamente. Questa è una carta, diciamo, di metà del Novecento, in cui si è usata poi una carta molto povera e quindi ha bisogno di un sostegno, ha bisogno di una veste, pur rispettando la sua originalità. Quindi voi fate il vestito, diciamo, dentro resta tutto uguale, voi semplicemente lo rinforzate. Spesso dobbiamo ripararlo pagina per pagina e quindi smontare l'opera, ripararla, ricucirla a mano e poi dargli sulla copertina mantenere l'originalità e dargli una veste che possa appunto sostenere anche l'interno. Quindi sì, gli facciamo una copertina, ma tenendo magari gli elementi originali dell'opera. È un po' quello che fate anche con le persone, mi viene da dire, no? Beh, una bella intuizione, grazie. La puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. You joked with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. We'll be right back. if you want to be a hero, well, just follow me. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.